Eccoci tornate. Che intro, attenzione. Bellissimo, allora. Mi ha fomentato. Grebana, se te eri già bella rilassata prima, ora. Spero, sono pompatissima. Ma soprattutto c'è con noi qua in regia un nostro amico che volevo presentare con una sua sigla ad hoc che ho fatto per lui, perché mi sono divertita in questa settimana a creare sigle per gli e le speakers. Che botta e c'hai. Ho sbagliato sigla. Va bene. Allora, ci abbiamo i volumi un po' troppo alti. Ciao a tutte, ciao a tutti e ciao a tutto a quella puntata numero 145 di Radio Contado. È un pomeriggio piovoso e tutti i microfoni stanno clippando, non capisco perché. E tra l'altro tutta questa. Ho infranto i sogni della Grebana, voleva mettere una sigla diversa da questa ma analoga e sì, ho sbagliato. Diciamo che Palmiro non la voleva, quindi partiamo è malissimo. Stato il suo subconscio. Sì, non il karma è andato giorni è a creare sigle per Palmiro e parole a caso fra karma, subconscio. Io ne ho imparato una nuova, si chiama Airig oggi. Uè. Comunque, a parte diciamo le nostre nuove apprendiste tecnologiche in regia, oggi sarà un'altra inesima una puntata super densa, densissima, e ricordiamo, ma soprattutto bagnata. Bagnata, sì, molto umida. E salutiamo le nostre amiche di Piazza Tasso che sono a fare il mercato sotto tutta questa acqua. E dovrebbero ascoltarci. Gli amici non li salutiamo. No. Niente, se volete ascoltarci, vi ricordiamo che potete ascoltarci su radiowombat.net e scriverci a Radio Contado @ in Siberia. Sempre e punto se net. Sembra che Sami sia velocizzato, non è così, va così normalmente, abbiamo provato a rallentarlo ma ancora non ci riusciamo. Se invece se avete la fortuna di capitare nel raggio chilometrico giusto, ci potete sentire su le 13:59 che non è l'ora ma è AM. Grande Palmiro. Comunque possiamo già spoilerare la prima canzone alle nostre ascoltatrici o abbiamo una telefonata? No, volevamo partire col botto perché abbiamo un sacco di inviati speciali che non sono qua con noi, ci stanno abbandonando tutti a Radio Montato, infatti. E se ne vanno tutti a giro, cioè poi io devo stare zitta perché me ne sono andata in Messico l'anno scorso, ma vabbè, glissiamo. Comunque diciamo abbiamo il reverendo che se n'è andato su un'isola a vedere probabilmente tempi meteorologici migliori, ma non lo sappiamo. Un'isola no, quello molto che lontano. Ci tiene a sottolineare, l'ultima volta gli ho detto come va la vacanza, è che non è in vacanza, quindi per favore teniamo presente, lui non è in vacanza. Diciamo, dovrebbe essere a fare le olive, però per appurarlo lo volevamo chiamare e accertarci che veramente stia facendo qualcosa e non si sia pioppato a casa di qualcuno. Ma che, sarà andato a giro sul show. Quindi adesso provo a chiamare il nostro Reverend e sentiamo cosa ci dice dalla Sicilia. Vediamo se ci riusciamo. Sta squillando? Ci giunge voce, nel frattempo vi aspettiamo che il telefono non squilla. Ma l'avevamo avvertito? Questa è la vera domanda. Ci giunge voce? L'ho avvertito. Ci giunge voce e lui si è andato nel territorio del lupo nero, in Sicilia. Nella tana del lupo nero? Nella tana del lupo nero, ma mi sembra che non mi stia squillando il telefono. E per lupo nero non intendiamo una metafora. Non lo sappiamo. Infatti volevamo accertarci che fosse vivo. Però il telefono non squilla. Forse non lo è. Sono brutti segni. Magari visto che stiamo cadendo nel vortice del silenzio, manda un pezzettino. Ah, sta squillando. Sta squillando ma non lo sento nel microfono. Problemi tecnici, scusate. Famoso iRig, a cui siamo collegati. Teoricamente dovremmo essere collegati all'iRig. E infatti il reverendo ha risposto. Aspetta. Pronto? Salve Reverend, abbiamo un attimo un problema con la iRig. Ora proviamo a riattaccarlo. Allora, ce la possiamo fare. Eccolo, Reverendo. Sì, salve. Ci senti? Non lo so, poi mi sentite, io mi sento. Sì, ti sentiamo, non più fortissimo, meno, ma più o meno. Ti sentiamo. Sentite il rumore della produzione? Ma avvicina il microfono. Alla bocca, non alla produzione. Dove vi trovate, Reverendo? Pronto? Reverendo? È molto... Ok, scusate, che è una situazione veramente concitata qui dal campo. Senti, ma prima di iniziare, reverendo, io ho creato una bellissima sigla anche per te, la vuoi sentire? Certo, assolutamente. Allora la mandiamo. Ma scusate, siamo in diretta perché questo è un collegamento serio. Certo, sì, assolutamente. Ah, ok, ok. Reverendo! Oh, vabbè, non, io non l'ho sentita assolutamente questa sigla, mi dispiace, ascolterò il podcast. No. Non si sentiva niente, no. Cioè. Però sono qui, sono riuscito a bloccare la produzione, sono qui con un giovane coltivatore della zona. Scusi lei. Fatemi travagliare, che avevamo prescia. No, ma no, non volevo disturbarla veramente. No, ma ci può ci puoi tradurre, reverendo? Fatemi travagliare, Uè, Giuseppe? No, è radio. Giuseppe, c'è il mio capello, Giuseppe. È radio contato, signore, senta, ma. Radio contato? Sì, cosa? Sì. È una cosa così di Radio Wombat, dalla Toscana, Firenze, si parla di alcune cose, contadine. No, già Giamaggio non ci capisce di questo cuore. Ma fanno loro la puntata oggi. Stiamo lavorando. Mi scusi. Non avevamo tempo da perdere, vado a parlare, fate, è andato a macciavagliare. Mi scusi, onorevole reverendo, mi sente? Posso interromperla? Certo, certo. Senta, ma quello con cui sta parlando è il rinomatissimo Lupo Nero della Sicilia, dalla quale il quale la sta ospitando. Beh, posso solo dire che siamo in provincia d'Agrigento, sì, Palmiro, sì. Ok, ma reverendo, ma ci puoi tradurre te questo linguaggio strano che noi non capiamo? No, io veramente non capisco. So solo che Radio Contado mi ha mandato qua in queste lande sicule. Non so niente, sono in presenza di estranei. Non hai ancora imparato la lingua del luogo? No, assolutamente. Avete delle curiosità che qua il locale preme, cioè c'ha già la mano sul tasto dell'agevolatore, dell'abbacchiatore. Ma si fanno diversamente in Toscana le olive in Sicilia? Ad Agrigento, anzi. Vabbè, si mettono le reti, ci sono le cose che scuotono le olive, però sono più grandi le olive. Che varietà avete, signore? Allora, abbiamo la ceratuola, la Pilicudara, la Biancolilla, la Nucizzara, l'uovo di piccione, la giarraffa ne avevamo abbonnate proprio. Vabbè, l'uovo di piccione è grande, per cui già sono olive grandi tendenzialmente. Ma come sta andando questa raccolta? Ci sono olive? Ma discrete, non ci possiamo lamentare. Perché qua da noi è una tragedia. Vabbè, meglio una tragedia che una barzelletta. Siamo simpatici, eh? Ma senta, e invece io e te, reverendo, che ci siamo sentiti poco tempo fa e mi avevi già, diciamo, spoilerato che le rese erano abbastanza basse, ecco, durante le prime settimane di raccolta. Ero curioso di sapere se si erano minimamente alzate, ecco, o se volevi anche dire in radio le rese basse e sicule, ecco, intorno a quale medie girano. La resa più bassa è a 15. Ah, vabbè, stiamo, insomma. A 15, a più bassa, ieri ha fatto un scemo, 22 ieri. 22. Wow, ci vedrete arrivare a fare olio in Sicilia, anche noi, eh? Una migrazione dal nord. Sì, allora, qua a Nata avevamo una squadra pacchianale, ma non pacchianale a Cusse, pacchianale muralisce. Avevamo una di Torino, avevamo uno di Bergamo, pare una barzelletta, sai quando dici mica c'era un francese, un virgese, un tedesco, Nata avevamo un piemontese, un bergamasco, un bolognese, Nata avevamo praticamente una squadra che siciliano ce n'è uno. Oh, però una fiorentina vi manca, no? Posso venire anch'io allora. A voglia, però Natanno, c'è una mano quando il corso è finito. Ok, va bene. Non ho capito niente. Ma invece il tempo meteorologico com'è? Bene, bello. Oggi un po' grigio, io però ho degli occhiali gialli. Come mai? Sì. Per non prendere troppi insulti negli occhi. Gli donano. Perché il reverendo è di tendenza. Esatto. No, ieri ha piovuto, ieri notte. Cosa positiva perché non pioveva da 2 mesi. E infatti quelle piante d'olivo mischine sono belle provate. E stacqua ci voleva, anche perché abbiamo passato agosto e settembre a combattere col fuoco. Cioè, comunque vi potranno raccontare, c'è un panorama veramente desolato. E quest'acqua almeno spingerà un po' la vegetazione, che sembra di stare nel deserto. Ma io questa voce la riconosco. Ma siamo a Caramba, Caramba, che sorpresa. Che meraviglia. Ciao. Insomma, ciao. Tutto a posto, la raccolta sta andando bene, fila tutto liscio e... Ma soprattutto si sta comportando bene, reverendo, è uno scansafatiche. Il reverendo è proprio il pezzo da 90, cioè ragazzi, il reverendo non se ne andrà via da qui facilmente. Ridateci reverendo. Ridatecelo, perché a casa c'è una ragazza che lo aspetta. Reverendo, sai chi è, vero? No, la verità è che abbiamo bisogno di qualcun altro che stia alla regia a Radio Contado, perché siamo alle pezze. Stiamo di nuovo alle pezze. Mi mancate. E però ci piacerebbe anche sentire. Vabbè, no, scusami, ti ho interrotto. No, niente, volevo solo sapere, fatto per la radio, che ho bisogno di altri finanziamenti, perché qua scarseggiano i soldi. Col cazzo, cioè, ho pagato i soldi che mi avete dato, ho pagato il viaggio d'andata, ma il ritorno lo vedo grigio. Senti, vendi un po' d'olio. A piedi, no? Sei un gran camminatore. Non è zona bici. Ti spediamo la Graziella. E invece ci piacerebbe anche sapere un po', se avete voglia anche un po' di raccontarci di Lupo Nero, della realtà. Visto, sempre parlando col reverendo, mi raccontava che comunque, insomma, raccogliete tutti l'olio, venite da tutte le parti d'Italia, siete super inclusivi, bla bla bla, queste storie, che però avete anche un bellissimo magazzino dove stivate l'olio e usate anche per il grano. Sì, è da un paio d'anni che ci siamo messi a fare anche grano, stiamo lavorando, diciamo, ancora in una fase di sperimentazione, di gioco. Abbiamo le nostre farine, un po' di grani antichi e praticamente in realtà qua i ragazzi, più che fare olio, fanno pane ogni giorno, cioè facciamo più pane noi a casa che a forno. Questi ragazzi hanno le mani d'oro. Grandi. Bene. Insomma, da voi se mangia bene, se beve bene, non piove. Faremo una visita. Piove, ogni tanto se piove non è che dispiace. È vero, c'hai ragione. Vabbè, il prossimo anno ci vengo anch'io a farmi un bagno a fine ottobre giù da voi. No, è che diciamo che anche noi aspettavamo l'acqua. L'hai detto. Ma quella che mo ti prenoto il biglietto. Ma senti, ma fate anche altro oltre olive a grano? Ma abbiamo un piccolo giardino con le arance, abbiamo un aranceto che però purtroppo quest'anno è stato vittima di un parassita, diciamo. Abbiamo un mandariano con tipo 100 vacche che ci ha praticamente devastato l'aranceto, quindi quest'anno le arance abbiamo direttamente la spremuta sul campo, abbiamo fatto. Come i ceci, che avevamo messo i ceci, sempre questo simpatico uomo ci ha fatto le panelle anche lì direttamente sul campo. E poi, vabbè, facciamo tante piccole cose, facciamo l'orto, facciamo, insomma... Mandorle, è vero, minchia, come sto battendo mandorle? Ma fate un sacco di cose! Abbiamo fatto le mandorle l'altro giorno, siamo andati a raccogliere delle mandorle, solitamente si fa ad agosto. Noi vogliamo vedere un po' di roba, reverendo, quando torni, se no non ci crediamo. Sganciati i soldi! Ah, noi l'amicizia, eh? Vabbè, diremo una raccolta fondi per finanziare i lavoratori e le lavoratrici di Radio Contado. Diventerà... Porta a casa il reverendo. Porta a casa il reverendo. Va bene. Ma reverendo, la ragazza che ti aspetta, l'hai capito chi è? No. Inizia per T e finisce con essa. È il tuo cane, non è una ragazza. Come ti permetti di trattarla così? Ha dei sentimenti. Guarda, le manchi un sacco, piange davanti alla porta di camera tua. Davvero. Ti aspetta. Vabbè. Ciao. Senti, sì, mi raccomando, continuate ad ascoltarci, perché adesso avrete il piacere invece di avere un confronto con la stagione delle olive di qua, con una bellissima registrazione che viene dal frantoio qua vicino. Quindi vi restate connesse. Siamo con voi del Lecce. Ciao, dai, reverendo. Un bacione, ciao, vediamo Lupo Nero. A presto. Un bacione, un dai. Bacione. Comunque, qui piove a bestia e abbiamo il morale super giù. Oggi sarà una puntata un po' pesante. No. Un bacio. Vai, mandiamo la canzone che ci avete consigliato, eh? Grandi, grandi, me l'ha consigliata qua l'intervistato. Oh, un bacione. Viva. Ciao. Tutta una chirindina, china, fare il rum e l'indomani, taggi vigli, torta, travagli, arronzasi, tare vigli, travagli per fumare, lassa stare, tabu tabu, rocampari, porti sempre a macchina a lavare, e tutto il giorno sta a girare, come te la tiri, che benzina d'acqua, su nella spardare, pronta a lamentare, e pure un rispacchico, passo tempo a peleare, si preservativi, non cruscotto quando la spardare, su paese, passano i giorni mesi, una pare una continua, tra più ci sono chiesi, arnesi, pi passatempo, cannone e birre, boscati, nida sera, su sera tu non sciarre, carragona una giornata dura una settimana, resisterà vent'anni, con base un mostro e tavacchiri buona, si esce da mattina c'è picca gente, pomeriggio nuggio a sera a me ci niente, mi stupari su Germania in di fare, ma puttà puro campare, un tempo fa passare un lare, si esce da mattina c'è picca gente, o pomeriggio nuggio a sera a me ci niente. Ad Aragona, ti stiamo qua giù pazzo, paesi dei balocchi, li salutiamo e siamo sempre stessi. Si esce da mattina, c'è picca gente, o pomeriggio nuggio, a sera me ci niente. Solo vecchie piccili, di cui campati, relle, cui combatti quei cavaggi, e quei che aspettano a naregge, cui vidi sti da mazzi, ornumenti, vaggeranno alla variante, testa cruda. A chi su cama ancora tenno, esperti di tutto, competenti in molto, sapendo in troppo, tranne il G8 e il 68. Mi ponno giudicare, per chi si sente in diritto a fallo, catarre. Regalo demo quando non esci scordatillo, manco per fallo, cavo masterizzati, prima vi la scontati, e dopo sparati minchiati, un rume frati, mi dici sto paese è morto tutti sinniero, saluta a me con Barisaro, un troppo va a Calvagna, me fra qua resistenza una campagna, l'impianto nato macchina carregna, si esci da mattina c'è picca gente, pomeriggio non a sera a me ci niente, mi sto paese, un germane di fare, ma butta puro campare, un tempo fa passare un lare, si esci da mattina c'è picca gente. O pomeriggio non giù a sera me ci rendi. Ad Aragona, li stiamo qua giù pazzo, paesi dei balocchi, li salutiamo e siamo sempre stessi. Se esci da mattina c'è picca gente. O pomeriggio non giù a sera me ci rendi. Oh, ciao, pigi, pigi. Ciao, Perna, come a posto? Ciao, Cartini. Sì, perché che fare? Minchia, capita con la tromba del bar più buona. Mia, che buona mia. E ci vedi? Minchia, stiamo andando a boscare, ci l'hanno come aspetta. Boh, aspetta, c'è la vita macchina. Veramente no. Allora, cioè, che boh. Ha potuto pigliare tu? Oh, vabbè, fra un quarto d'ora rosava. Bamba rosai, mi raccomando, un po' ritardo, un quarto d'ora. Casti picciotti nel metaro, pa' giustare in anda sera. Mi pare a mia caccia a campare, c'è resco, sti compare, ci metto bianco. Salta e poi mi piglia male. E come a fare? Chi c'è di fare? Dimmelo tu che si spacchiuse e trovi sempre qualcosa di dire. Chi c'ho una giomma d'erba e non c'è la sta bomba. Manco tempo da giomalla che sto sciavoro mi spalla. Il sindaco promette strutture per voi giovani, ma prima vi si raggiustare i stati di sta tombinopoli. Minacciano di ingenerire sto paese qua di scarica, qua scusa di putiri, dare sui travagli a chi sa gente. Toto fu presidente, esidiare i sordi per fregare i poveri ignoranti. Sto passo fra 5 anni siamo tutti in rotta buta. Ora mi spaccio un'anda birra e vi saluto. Mi stupai su Germania di fare, ma puttà puro campare, un tempo che passare un lare. Si esci da mattina c'è picca gente, o pomeriggio non giù a sera me ci rendi. Ad Aragona li stiamo qua giù pazzo, paesi dei balocchi, ni salutiamo e siamo sempre stessi. Si esci da mattina c'è picca gente, o pomeriggio non giù a sera me ci rendi. Mi stupai su Germania di fare, ma puttà puro campare, un tempo che passare un lare. E rieccoci. La canzoncina consigliata. Bellissimo. Dai nostri siculi. Mala mala nera. Ma adesso appunto, come anticipavo anche al reverendo, a breve potete ascoltare una bellissima registrazione fatta da una super inviata, cioè me stessa, in un frantoio qua di zona che chiamiamo... Com'è efficiente la Grebana? È sempre lo stesso frantoio di ogni intervista, esatto, di ogni anno. Perché ormai ci piace e quindi... Diciamo che siamo manicati. Sì, poi ci serve continuità, cioè vogliamo vedere come cambiano le cose negli anni e quindi siamo andati a sentire come la stagione è veramente triste quest'anno, ma ce lo può confermare anche Palmiro che adesso sta raccogliendo olive. Un monte di olive, tantissime. Sì, eh? Sì, sta passando la voglia, però va bene. E, noi appunto... No, una bella stagione di merda. Sì, insomma, era una stagione triste, ma dopo aver sentito i nostri compagni dalla Sicilia, diciamo, almeno da qualche parte sta qualcosa andando bene. Siamo felici, perché da noi, allora, non abbiamo fatto uva, non abbiamo fatto olive, non abbiamo fatto un cazzo praticamente. Nemmeno miele, eh? Se per consolarmi, oltretutto, io dovrei seminare il grano insieme al mio bellissimo compagno. Ma e non ci sta, e non ci stiamo riuscendo, perché non asciuga, non smette mai più di piovere, quindi insomma, si prospetta un anno proprio veramente bellissimo. Gli statali, dovevate andare a fare, esatto, gli statali. C'aveva ragione la mamma, vai a studiare, invece niente. L'unica cosa bella che abbiamo è l'orto invernale, però c'è da dire quando passiamo davanti al nostro orto, sì, un pezzettino di cuore dice: ah, il nostro orto invernale, non so, di Palmiro Grebane e Winchester, che a 20 l'orto di casa. Dal nostro c'è un orto che non ha neanche una cavolaia, faccio per inciso, cioè solo un cavolo. Ma siamo stati massacrati, lo sì. So, per questo è vero, sì, sì. Tutta una gioia, stiamo veramente pensando, ma non infatti... lo so, di ricorrere a mezzi chimici drastici, abbandonare il mercato genuino clandestino e glifosato, OGM e insetticidi a gogo, cioè, e andare questa, magari dare fuoco a quest'orto vicino, mercati della scia. Guarda, qui ci abbiamo in regia anche il nostro capostazione che dice: no, no, no, non abbandonate la retta via. No, stiamo scherzando. Buono. Noi ci piace soffrire. Se c'è il sole, vogliamo che piova. Se piove, vogliamo che ci sia il sole. Insomma, non ci va più o meno mai bene niente. Siamo già vecchi. E allora... Però comunque, io manderei questa bellissima intervista. Spero di farvi ridere. Ecco. Sì, vabbè. Sarà molto, speriamo sia motivazionale. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, oggi andremo alla scoperta insieme del frantoio. Vedremo come sta procedendo quest'annata, come stanno i nostri amici frantoiani dopo la visita dell'anno scorso di altri nostri inviati, e chiameremo per una questione di privacy questo frantoio con un nome fittizio e lo chiameremo Little Valley. Ma andiamo insieme, stiamo arrivando. Ed eccoci, siamo qua all'interno del frantoio, ma quella che ci circonda è una visione apocalittica. Come potete sentire, non si sente alcun rumore, vuoto, niente, nessuna macchina in funzione. Cerco disperatamente qualche frantoiano, mi affaccio dietro ai macchinari, ma non vedo nessuno. Cioè, il vuoto. Salgo sulla pesa e non ci sono beans con olive. Non c'è niente. Vabbè, mi metterò in sala d'attesa a aspettare. Beh, che dire, questa lunga attesa è già passata un'ora e mezzo e non lo so, mi porta alla mente dei ricordi, tipo ricordi di una stagione migliore. L'anno scorso un sacco di olive, i nostri inviati, tanta allegria. Incrociamo nel parcheggio, come va questa stagione? È andata bene, ora sono un po' nervoso perché la gente mi passa avanti sulla pesa e io perdo il turno e già è tardi, però va bene, dai, le rese sono buone, ci avviamo verso una chiusura più che dignitosa. Entriamo e sentiamo un po' di casino. È una storia esilarante. Il frantoiano ha delle cuffie veramente veramente sexy, un pile di un verde impeccato. Quante leve c'hai adesso lì dentro? Adesso sto lavorando 11, 1 e mezzo, quindi 12 e mezzo più 3, 15 quintali d'olive. Attenzione, 15 quintali d'olive. Eravamo rimasti un attimo appannati di fronte a tutta questa meraviglia. Alla fine del processo c'è una cascata d'olio che vediamo. Trovare Dranzi in Transilvania, visto che Dracula ha morso troppi cazzo, forno il mio decano. Io da domani per 3 giorni non lavoro. Quante ore hai lavorato nelle ultime 2 mesi? Specifichiamo che sono le parole del nostro frantoiano. Dalle 10 alle 14 ore tutti i giorni. Caserta entra nelle case, sta allerta. Quando il frantoio più bello del mondo. Ah, ok, perché comunque qua 24 ore al giorno si va avanti. E esatto, la roba esatto. Resta poi fatto se vendi poi non ci credi. Sono qui in sala d'attesa, sono passate 4 ore e mezzo e sembra che adesso il telefono forse stia iniziando un po' a squillare. Frantoio, buongiorno. Tipo, allora, può venire verso... Verso le 11:15 la mattina. Ed eccoci, adesso stiamo entrando nell'orciaia, ovvero il locale dove viene conservato l'olio. Quest'anno però purtroppo siamo circondati da grandissimi tini che sono vuoti. Come si può sentire dal rimbombo, questi tini purtroppo sono vuoti e quindi vuol dire che quest'anno nessuno sta conferendo l'olio. Ma che cos'è il conferimento? Lo chiediamo al nostro capo frantoiano. Allora, cosa vuol dire conferire l'olio? Conferire l'olio significa che ogni produttore che produce grandi quantità può lasciarlo al frantoio per poi in un successivo momento il frantoio lo vende e liquida in cash il produttore. E quindi quest'anno diciamo non sta conferendo nessuno. Esatto. Ok, quindi il frantoio non ha praticamente olio nuovo. E quindi come si fa? No, si fa senza, si fa come faenza. Bene, grazie mille per questa tristissima stagione, proseguiamo il nostro tour. Eccoci, stiamo incrociando un mulettista che lavora da quest'anno in frantoio, ma com'è lavorare qua? Beh, poche olive ma tanto moccio in questa stagione che definirei con un francesismo una stagione di merda. Ma andiamo avanti. A me mi piace la pasta delle olive, l'oliva. A me mi piace la pasta delle olive, l'oliva. Siamo qui in compagnia del capo frantoiano e stiamo per assistere alla miracolosa accensione delle macchine. Frantoiano, scusi se la disturbo, ma è vero che qui con voi lavora un certo Mr. Chip? Ma si può sapere chi è questo misterioso personaggio? Pezzo di merda. E che cosa fa Mr. Chip per il frantoio? Ovviamente lava i separatori. Ok, ma c'ha un contratto stagionale? Sì, un contratto a tempo determinato, sì, esatto. Ok, grazie mille, la lascio a questa giornata e sembra ricca di niente. In realtà il frantoiano l'ho svegliato, si era un po' acchioccato dopo aver acceso con molta calma le macchine, ma vediamo come prosegue. Ma le cuffie? Ora me le metto. Cosa ne pensa del corso HACCP? Una beata ceppa di minchia. È da qui che esce l'olio? Sì. Devo dire che sto riscontrando molta scontrosità e poca voglia di rilasciare le interviste sia da parte dei lavoratori ma anche dei fruitori. Sono scarse le quantità, rese abbastanza buone ma poca roba. È un'annata di guasti questa per il frantoio, ma è tutti gli anni così? Sì. Quante olive avevi franto finora in quintali? Non lo so. Poche o tante? Poche. È un'annata scarsa questa. Scarsissima. A me rompe il cazzo di anni. Face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. Come avete potuto sentire, quindi gli umori sono bassi, poche parole, poche olive, molto tempo a disposizione ed è per questo che ho lasciato il registratore in mano ad uno dei frantoiani e gli ho fatto fare un paio di interviste così almeno faceva qualcosa. Allora bimbi, cosa ne pensate di questo frantoio? Bene, bene. Bene in che senso? Bene che è bello. Lei cosa mi dice? Bene che è bello. Bene che è bello, ottimo. Ok, siamo qui con Emilio, che ha appena visitato il frantoio e adesso io andremo a fare un po' di domande. Ok, domanda numero 1, signor Emilio. Di che colore è l'olio? È giallo. Come giallo? È giallo verde. È giallo verde? È verde ghibellino? Sì. Domanda numero due. Qual è la macchina più grossa di tutto il frantoio? Non lo so. Quella che sembra forse un Proiettile. missile? Sì. Un missile? Sì. O sembra più un ippopotamo? Ippopotamo. Domanda numero 3. Chi è il frantoiano più bravo? Come non lo sai? Avo? Detto anche? Come si chiama Avo? Bravo, bravo, sì, effettivamente anch'io penso sia il più bravo frantoiano. Chi è il frantoiano meno bravo? Infine. Bravo, sì, anch'io penso stessa cosa. E infine l'ultima domanda. Vediamo, una domanda a sorpresa. È silenzioso il frantoio? È rumoroso. Perché è rumoroso? Perché ci sono delle macchine che fanno rumore. E il primolio com'è? Wow! Pizzichino? Oh, e concludiamo questa bellissima scarrellata di interviste con delle voci di speranza. Viva le nuove generazioni! E prima di chiudere, vi volevamo avvisare che per chiunque voglia, il frantoiano Silvio si rende disponibile nelle sue pause, vista la scarsa stagione, come educatore per bimbi in fascia di età dai 2,5 ai 9 anni. E è tutto. Un bacio, alla prossima puntata. Non mi piace la pasta d'oliva! Oliva! Ehi! Non mi piace la pasta d'oliva! L'oliva! Allora, manderemo subito un pezzaccio che dedichiamo ormai come consuetudine al nostro produttore di formaggi preferito, Christian. Di nuovo. Tornati in questa allegrissima puntata. Sì, non so se come avete potuto sentire, una bellissima intervista piena di gioia. C'era Mi ha fatto veramente. impazzire Pino il frantoiano. Era sì. troppo sfavato. Sì, sono tutti veramente sfavati, tristissimi e annoiati. Perché... Insomma, buon vecchio Silvio, detto Avo, sembrava sì. abbastanza... Ha riempito le sue giornate come educatore per bimbi, che gli piace molto, ma infatti sì. Però sono molto annoiati, effettivamente c'è poco lavoro, tanti piccoli carichi, insomma non hanno quel brivido da 24 ore a diritto che li tiene sì. qui pompati di adrenalina e quindi li fa andare avanti. Anche i frantoiani non se la passano bene quest'anno, dai, dai. C'è tanta presa a male. Comunque... Una bellissima cosa che però ho scoperto mentre ero lì in sala d'attesa nel frantoio, perché visto che sono stata lì 4 ore nell'attesa di trovare qualcuno di vivo che mi potesse rispondere, ho trovato un bellissimo, si chiama Foglio Notizie, che è dell'Unione degli Agricoltori di Firenze. E mi piaceva quindi leggervi degli stralci. Questo giornaletto, che è il numero 8, è uscito il 3 agosto 2023, appunto ricordiamo l'Unione degli Agricoltori, in prima pagina in maniera molto eclatante con una bella scritto importante c'è un articolo sul glifosato e l'uso del glifosato. E quindi cosa riporta questo? Riporta che c'è nota dell'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare: non è stata individuata alcuna area di preoccupazione critica in relazione al rischio che esso comporta per l'uomo e l'ambiente in generale. Per la Confagricoltura le evidenze scientifiche siano alla base della proposta della Commissione Europea agli Stati membri. Allora, ovviamente, cosa succede? Poi scorriamo l'articolo e perché risalta fuori quando diciamo l'italiano medio se ne sta al mare in vacanza, oltre al decreto siccità che cerca di infilarci gli OGM. Noi sappiamo che praticamente l'autorizzazione del glifosato sarebbe in scadenza per questo 15 dicembre. Mm-hmm. Quindi cosa è successo? Magicamente l'EFSA appunto tira fuori questa bellissima... questo bellissimo studio, anzi sono più studi messi insieme per dirci che alla fine hanno scoperto che non è vero che il glifosato è cancerogeno e quindi l'Unione Europea deve esprimersi per capire se rinnovare questa concessione per altri 5-10 anni oppure no. E tra l'altro questa cosa doveva già essere accaduta a settembre, poi diciamo la votazione è stata rimandata, comunque se ne parlerà prima di dicembre. E ovviamente poi mi faceva sorridere perché anche qui appunto noi abbiamo parlato del decreto siccità, del fatto dei nuovi OGM, ci hanno inserito dentro come se fossero una risorsa, creando milioni di piante che riescono a resistere senza l'acqua. E anche qui c'è un bel riferimento, infatti parla di un tema che rientra in quello più ampio relativo agli strumenti a disposizione delle aziende agricole per far fronte ai cambiamenti climatici. Quindi diciamo ce lo rinfilano pure qui questa storia dei cambiamenti climatici. E niente, praticamente quindi poi mi sono andata allora incuriosita da questo bellissimo articolo, mi sono andata a cercare, scusate è colpa mia, ma ci avvertono dal mercato che si sente poco la grebana. Alzami palmiro, ho già alzato. Allora, scusami, io allora sono andata così per curiosità a cercare delle cose sul sito dell'EFSA a questo punto e quindi ho trovato tutto un bel papier di foglietti che loro hanno pubblicato per spiegare alle masse interessate com'è che sono arrivati alla conclusione di questo studio, in cui appunto in apertura loro dicono che è la valutazione più completa e trasparente di un pesticida che l'EFSA e gli stati membri dell'UE abbiano mai effettuato. E poi ve lo leggo un pochino così a grandi linee perché è molto interessante. Ci dice quali sono le conclusioni principali: la valutazione dell'impatto del glifosato sulla salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente non ha evidenziato alcuna area di preoccupazione critica. Poi ci dice cos'è una preoccupazione critica: diciamo viene definita critica quando riguarda tutti gli usi proposti del pesticida, che quindi sono l'impiego in presemina, il post raccolto eccetera. Poi comunque sotto però ci dicono: per quanto riguarda l'ecotossicologia, il pacchetto di dati ha consentito un approccio conservativo alla valutazione del rischio, che ha identificato un rischio elevato a lungo termine per i mammiferi in 12 dei 23 usi proposti dal glifosato. Quindi prima ci dice tutto bene, poi dice poi sì abbiamo fatto esatto lo studio ecotossico, sì abbiamo visto che da noi ai mammiferi, ma insomma comunque va tutto bene. Poi proseguiamo, però ci sono, loro dicono, delle questioni che non è stato possibile risolvere in via definitiva. E quali sono? La valutazione di una delle impurità, che praticamente ha un potenziale clastogenico, cioè ovvero causa delle rotture nel DNA, praticamente c'è appunto questa impurità che puoi trovare nel glifosato e a quanto pare potrebbe avere questo potenziale, però non lo sappiamo di sicuro, quindi per ora va bene così. poi non è stato possibile completare nemmeno la valutazione del rischio alimentare per i consumatori a causa di dati incompleti sulla quantità di residui di glifosato nelle colture a rotazione quali carote, lattuga e frumento. Tuttavia non si prevede che ciò comporti un superamento dei livelli di sicurezza tossicologica e di conseguenza non sono state rilevate preoccupazioni critiche della serie ci fidiamo, poi si sta a vedere, non lo sappiamo, però siamo propositivi. In più ci dice, la valutazione dei rischi per le piante acquatiche non ha potuto essere completata a causa della mancanza di dati sull'esposizione al glifosato attraverso la dispersione del prodotto. Quindi anche qui non lo sappiamo, ma andiamo sulla fiducia. Poi abbiamo anche altre questioni rilevanti in sospeso che sono: non erano disponibili informazioni sulla tossicità a breve e a lungo termine di uno dei componenti della formulazione valutata per usi rappresentativi. Quindi per questa formulazione non sono emerse indicazioni di tossicità acuta e genotossica. Non si capisce, prima dice non ce l'hanno, poi ci dice che forse sì, anche qui. Ma questi sono tutti i dati in base ai quali rivedranno la decisione finale? No, in base ai quali l'EFSA ha praticamente fatto questo mega malloppone gigante dove al suo interno ci sono 2025, insomma tantissimi studi che loro hanno preso. Tra l'altro loro poi si interfacciano anche con l'ECHA, che è l'Agenzia per le Sostanze Chimiche, che ha fatto comunque un altro rapporto suo. E loro, basandosi su questo, più tutti degli studi che loro chiedono di fare ai vari, e che tra l'altro devono proporre anche proprio quelli che mandano i prodotti sul mercato, sono tenuti a dare e a produrre del materiale per l'EFSA in cui ci sono degli studi che testimoniano che tutto va come deve andare. Loro sostengono di aver fatto questo malloppo con tantissimi studi, il più approfondito di tutti i secoli, e di essere arrivati a queste conclusioni per cui ci dicano che in realtà non abbiamo paura. Poi però ve le leggiamo e appunto si possiamo continuare, ci sono un sacco di punti che sono mancanti. Però sono tutti enti italiane? Non sono tutti enti italiani. Okay. No, perché tra l'altro l'EFSA si interfaccia con degli stati membri che a rotazione scelgono di essere i relatori, diciamo, di uno di questi controlli, e in questo caso non mi ricordo, c'è la Svezia, mi sembra, sono quattro gli stati. Ok, quindi in realtà è proprio un'azione a livello europeo. Sì, di, perché l'EFSA è un istituto poi europeo, poi c'ha sede anche a Parma, mi sembra, se non sbaglio, vorrei dirvi una cazzata. E però in base a questo poi lei presenta, manda questo rapporto a tutti gli altri stati membri, che poi possono, così avendo questi fogli in mano, valutare se sì o no. Poi ovviamente loro ci diranno, per l'EFSA va tutto bene, poi vai a leggere, come stavate ascoltando, non mi sembra vada proprio tutto bene, però a quanto pare per loro, anche se ci sono delle lacune, tipo se i consumatori stanno bene o non ce ne frega nulla, i mammiferi forse subiscano delle conseguenze, ma stiamo a vedere, le acque pure, cioè, e poi appunto possiamo continuare, perché dice non ci sono indicazioni che il glifosato come sostanza attiva abbia un potenziale neurotossico. Tuttavia i dati della letteratura pubblicata sulle formulazioni a base di glifosato e uno studio condotto con un sale di glifosato, poi ci dice non approvato nell'UE, evidenziano effetti di neurotossicità per lo sviluppo. Quindi anche qui ci dice, guarda, non sembra sia neurotossico, però spesso viene fuori in delle formulazioni questa neurotossicità è saltata fuori, ma anche qui ce ne fottiamo, a quanto pare va bene, non è un grande rischio. E poi ci dicono che i rischi per la biodiversità associati agli usi rappresentativi del glifosato sono complessi e dipendono da molteplici fattori, quindi non abbiamo metodologie armonizzate e specifici obiettivi di protezione concordati. Quindi i gestori del rischio possono prendere in considerazione misure di mitigazione che non si sa quali siano, ma a quanto pare tutto questo ci va bene. Quindi l'EFSA ha mandato tutto questo dossier in cui si dice, guarda, abbiamo deciso che non è neurotossico e non fa nulla, va tutto bene. Poi ci dice, sì, ci manca qualche punto da specificare, ma lo faremo, state sereni. Ah, ecco, ho trovato quali sono i relatori, che sono i relatori di questa cosa del glifosato, sono stati Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Svezia, che hanno collaborato, diciamo, alla redazione, alla valutazione di questo studio. E quindi nulla. Poi, quindi è tutto un sacco bellissimo. E niente, cosa è successo? Quindi appunto a settembre 2023 gli stati praticamente dovevano votare rinnovare per altri 10 anni l'uso del glifosato. Cosa è successo? Hanno deciso di rimandare la decisione perché non si era formata una maggioranza qualificata necessaria né per approvarla né per respingerla. Quindi questa decisione è stata rimandata a novembre, diciamo. Quindi dovremo sentirne parlare a breve. E quello che, pescando invece dal sito del WWF, ho trovato un loro commento che dice: è sconcertante però il voto favorevole del governo italiano, che ha avuto un cambio di orientamento rispetto al 2017. E altrettanto sconcertante è il silenzio delle associazioni agricole che nella fase che ha preceduto il voto non hanno espresso una posizione contraria alla proroga. Quindi è tutto un sacco bello, anche l'Italia a sto giro che l'altra volta aveva detto no, siamo contrari, sembrava appunto che stessimo andando verso una eliminazione del glifosato, se non sbaglio era già stato tolto dalle aree verdi pubbliche, poi era stato detto vabbè teniamocelo fino a dicembre 2023 perché queste milioni di scorte che abbiamo, se no dove le buttano i produttori, hanno speso un sacco di soldi. Però invece va a finire che insomma ce lo fanno rientrare dalla finestra allo scadere. È tutto da vedere. Esatto, è tutto da vedere, quindi è tutto un sacco bello. E vi stavo dicendo tutto questo perché volevo salutare la nostra cara amica Daniela Conti, che spesso chiamiamo, che è la nostra biologa del cuore, con cui solitamente parliamo di OGM, perché è lei che ci ha girato invece un comunicato stampa che è uscito a fine ottobre 2023 e che viene dall'Istituto Ramazzini. Questo Istituto Ramazzini invece cosa ha fatto? Ha fatto un esperimento col quale dimostrerebbe invece la cancerogenicità del glifosato. Quindi l'EFSA ci dice noi abbiamo milioni di studi e con i nostri milioni di studi state sicuri. Invece l'Istituto Ramazzini dice ma insomma tanto sicuri noi staremo. E quindi vi dico un po' cosa è venuto fuori dal loro studio. Così dicono e basse dosi di erbicidi a base di glifosato causano la leucemia nei ratti, ma soprattutto nei ratti in giovane età. Quindi in tutto questo il glifosato è il diserbante più usato al mondo e quindi lo troviamo regolarmente negli alimenti, nell'acqua e nei campioni umani, perché ovviamente noi ce lo mangiamo e non è che poi lo facciamo sparire, ce lo appioppiamo addosso, che a quanto pare non dovrebbe essere cancerogeno, tossico, ma non lo sappiamo, però per l'essere va fottute. Tutto bene. Comunque loro hanno fatto questo esperimento e somministrando ai ratti attraverso l'acqua potabile a partire dalla vita prenatale a dosi appunto molto basse, che sono dosi attualmente considerate sicure dalle agenzie di regolamentazione e quindi corrispondono alla ADI, cioè che è la dose giornaliera ammissibile, loro hanno visto invece che praticamente circa la metà delle morti per leucemia osservate nei ratti esposti al glifosato e agli erbicidi a base di glifosato si sono verificate a meno di un anno di età. Mentre su tutti gli altri topi non era stato visto assolutamente niente di, cioè non è che tutti i topi avevano la leucemia, insomma, cioè, invece a quanto pare se gli dai il glifosato troppo bene non stanno. E praticamente cosa ci dice intanto? Quindi questo studio è comunque anche questo uno studio tossicologico e quindi niente, secondo loro non è assolutamente vero tutto ciò che dice l'EFSA, quindi sarebbe un simpatico dibattito, solo che non se ne sente parlare da nessuna parte, le associazioni di categoria come sempre non dicono nulla oppure appaiono questi simpatici giornaletti come quello che vi ho letto prima dei bellissimi della bellissima Unione Agricoltori, quindi che anche sugli OGM quindi non si sta esprimendo e anzi forse punta in realtà a diciamo ad assimilare anche i nuovi OGM, quindi è tutto un sacco bello in questa puntata come sempre, sembra argomenti esilaranti, tutto super felice, non ce la prende così male per un nostro futuro migliore, perché insomma come sappiamo verrà valutata a breve appunto anche l'inserimento dei nuovi OGM, perché al di là dell'Italia che ha voluto fare la precursrice come sempre, gli piace essere la prima nelle cose migliori e quindi infilare nel decreto siccità questa roba sui nuovi OGM senza averne ovviamente nessun titolo, perché comunque ci si rifà prima all'Unione Europea, ma lei voleva arrivare prima di tutti come sempre nelle cose bellissime. Però questa cosa verrà valutata a breve a livello di Unione Europea e diciamo i pronostici sono abbastanza negativi, cioè è molto probabile che passino questi nuovi OGM che ci vogliano far passare come TEA, perché è più carino dire tecniche di evoluzione assistita, e insieme a questi a quanto pare ci sta che torni alla ribalta il nostro amico glifosato. Esatto. Per forza. Mors mea vita TEA. Sì, che è bellissimo, possiamo anche parlarne col Palmiro, perché comunque il nostro amico Palmiro, che ha un po' di api, ha avuto a che fare col glifosato di recente e non è stata una bella esperienza. No, assolutamente no, ma se volete, ora vabbè, non proprio che abbia voglia di far riemergere, insomma, brutte esperienze, se ne era già parlato comunque, cos'era forse l'ultima puntata della stagione scorsa, l'avvelenamento dovuto a pesticidi. Comunque, scusate, interrompo tutti un attimo perché volevo cogliere l'occasione per salutare Pamela, che non abbiamo ancora salutato in radio. Ciao Pamela. È arrivata per noi. Dirci anche due cose. Liberata dal traffico fiorentino, ciao a tutti. Sono felice di essere qui con voi oggi No, niente, volevo semplicemente segnalarvi questo materiale che Selvatica ha reso un po' pubblico, insomma ci ha segnalato durante questa settimana e che io ho ascoltato, e riguarda il libro di Giusy Palomba e la sua intervista a Transfemminonda, e ve lo segnalo perché è molto interessante. Si chiama la trama alternativa, sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere, edito da Minimum Fax. Beh, diciamo che il cuore, insomma, al di là delle solite, insomma, tragedie sociali che in questo caso riguardano non tanto gli avvelenamenti quanto le relazioni tossiche e le relazioni violente tra maschi e femmine, e che comunque attraversano anche le realtà di movimento, purtroppo, però propone una forma, diciamo, innovativa e partecipata di soluzione, insomma, diciamo, di presa, ecco, in carico del problema e dell'atto, non tanto in termini punitivi quanto in termini elaborativi e generativi. E insomma, siccome è una delle prime pubblicazioni, tra l'altro ad opera di questa giovane autrice che è molto brava, insomma, poi si può sentire, cioè, è stato messo in rete, comunque si trova su Transfemminonda, si trova l'intervista. E niente, volevo segnalarvelo perché magari andate ad ascoltarvelo, e può essere, insomma, ispiratore e soprattutto innovatore. Super interessante. Grazie. Allora, io direi un attimo di far riposare le orecchie delle nostre care radioascoltatrici e mandare... mia voce, ho parlato troppo per oggi. No, ma tra l'altro lo scusate, la nostra Grebana, che tra l'altro, insomma, super informatissima, ha fatto una super redazione glifosato OGM oggi. Grazie. Lo sai, una nostra vecchissima conoscenza, che in questo momento è professore di emerita università svedese, ho avuto modo di ragionarci quest'anno su questa questione, perché si occupa di ricerca, appunto, per lo sviluppo sostenibile, alimentare, eccetera, e giustamente dal suo punto di vista lui mi diceva che non è vero che fanno male gli OGM, che sono sani, sono prodotti sani, quindi a livello di comunità scientifica, quantomeno in Svezia, che mi sembra tu abbia nominato tra l'altro, sì, fra i paesi relatori, paesi relatori. Gli OGM sono la svolta, punto. Beh, io farei un saluto caloroso al tuo amico. Non so se ci sente. Sì, guarda, credo che in una delle prossime puntate approfondiremo appunto anche la questione dei nuovi OGM, e abbiamo affrontato durante l'ultimo Genuino con un tavolo, appunto, dove hanno partecipato Daniela Conti, dove c'era anche la partecipazione di Semi Rurali, Terra e Libertà, un collettivo dal Trentino, e è stato veramente un tavolo molto interessante. Abbiamo affrontato la questione da varie prospettive, facendo sia un quadro storico che ci ha fatto più, diciamo, Semi Rurali, sia un po' da, appunto, dal collettivo del Trentino ci ha portato un bel testo aveva scritto, e magari poi gireremo quando chiameremo Flo, che ce ne parlerà, e ovviamente poi la Daniela Conti ci ha spiegato più volte anche in radio come un po' ci vogliano far passare questi nuovi OGM, come questa svolta e questa nuova tecnica, quando invece più o meno siamo sulla stessa scia dei vecchi, e le cose che combiniamo quando modifichiamo i gemi non sappiamo effettivamente bene quali sono, però a quanto pare ce ne disinteressiamo. Che ce n'è fatto a noi? Che ce n'è fatto a noi? Ma basta, perché sennò ci affossiamo. Mandiamo una canzone, perché qua veramente è un dramma. Con tutte queste parole, cioè, sennò è un dramma, Benny. Dai, vi mandiamo un pezzaccio. Potevamo fare radio imprenditori. Ora chiudo i microfoni. Ciao. What do you know? What do you know? What do you know? The birds and the bees got wise to the light. What do you know? So they took to the trees and took to the skies. What do you know? On top of the chain and safe from the rain. What do you know? What you know about the ways of the underside? What do you know? Bought a hot shot right from my North and Guinea. What do you know? Cause they're hip to the bull and hip to the light. What do if you ask, 'cause you ain't got a penny. What do you know? Don't you know about the ways on the underside? What do you know? A hot shot cat from a North Bank. Into perfect waves in the night. What do you know? One crashes on my left and one on my right. It's all fire and brimstone, baby, so let's go outside. What do you it's know? All fire and brimstone, baby. I got my brand new pistol, baby. What do you know? What a hot shot cat from a North Bay. The ways on the underside. What do you know? Got a hot shot cat from a North Bay Guinea. What do you know? Hanging up with your eyes, 'cause you ain't got a penny. What do you know? Dropping bombs from above, cut you all down to size. What do you know? 'Cause the hip to the ball and the hip to the rise. And the hip to the rise. Bentornati. Adesso ci avviciniamo all'ascolto di un'intervista. L'intervista è a Farid, un giornalista, un attivista e un olivicoltore dalla Palestina. Questa intervista la potrete anche riascoltare il 12 novembre, domenica, quando verrà fatta una super staffetta radiofonica a favore della Palestina di formazione dalle 9 di mattina fino alle 9 di sera. E parteciperanno, oltre a Radio Wombat, che mi sembra avrà l'orario dalle 15 alle 18, parteciperanno anche Radio Onda d'Urto, Quar, Radio Onda Rossa, Radio ZM, Radio Ciroma, Blackout, Eustachio e Città Pescara. Direi di partire direttamente con l'intervista, che è bella intensa. Sì, e mandiamo un bacione a Tiziana, che è colei che ci ha dato il contatto con Farid, visto che l'avevano conosciuto in un'occasione di una fiera della Terra Trema. Quindi un salutone a Tiziana e ciao, ascoltiamo Tizi. Questa intervista. Sì, e se volete trovare anche maggiori informazioni per la staffetta di domenica, potete andare sulla punta.org e trovate tutto. Grande, Palmi. Buon ascolto per l'intervista. E ringraziamo Francesco, ovviamente, che si è prestato come voce e come traduzione, quindi è stato ingaggiato per questa intervista, quindi lo salutiamo. Ciao, Fra. Ciao, Fra. Hello, Farid, can you hear me? Yes, very well. Very well. Marhaba, Farid, mazal khair. Salam alaikum. Marhabtain, mazal khair. Ciao. Ciao. Okay, Farid, so now we're gonna start the interview, ok? Buonasera, siamo qua con Farid, giornalista, attivista ambientale e agricoltore, che vive a Ramallah. Hi Farid, hi, welcome. Hi, good evening. Hi, good evening to everybody. Quello che farò ora, gli farò delle domande e poi seguirò la traduzione. Quindi let's start with the first question, Farid. I would like that you introduce yourself, because we know that you are a freelance journalist and book writer, political land and environment activist, farmer. You are many things. And before to explain, I mean, the situation in Palestine, I would like that you introduce a little bit yourself, what you are doing, where you are, what you are doing. I mean, quindi gli ho chiesto fondamentalmente, prima di parlare della politica, che si faccia una breve introduzione di sé e chi è. Ok, Farid, you can talk. Yes, my name is Farid Tamullah. I live, now I'm talking to you from Ramallah, where I live. I am a journalist and I am also an activist, environmental and political activist. I also run my family farm, which is located in the village of Kira. It is between Ramallah and Nablus. Il nome è Farid Tamullah, è un giornalista ma anche un agricoltore. E in questo momento sta chiamando da Ramallah, dove vive con la sua famiglia e dove ha una fattoria, e in un villaggio chiamato Kira, che è tra Nablus e Ramallah. Ok? So I have just finished my olive harvest season in my village, and I came back to Ramallah, where I'm living from now. Quindi ha appena finito, tra l'altro, la raccolta delle olive, come noi stiamo facendo, sta tornando a Ramallah. How is going the harvest? How is gone the harvest? Come è andata la raccolta? There were olives or not? Yeah, this year it's in general in Palestine it's not the good year for olive harvest, but my trees are good. I produced like 1.7 tons of oil, which is a good season for me. Quindi è una buona stagione, 1,7 tonnellate di olio. Non è in generale per la Palestina, ma diceva, ma per lui, a lui è andata bene. Okay, happy to hear that, man. for us it's not like a very good year. Anyway. gli ho detto, per noi non è proprio, per tutti una buona annata. Bene. Allora, so let's focus on the topic. What change in your life, in your in the daily activities in your life, the 7 October 2023, when the day of the attack? Cosa è cambiato nella sua attività, nella sua giornata quotidiana quel 7 ottobre 2023, dopo che c'è stato quell'attacco, il famoso attacco, diciamo? Please Farid. Clarify that the history did not start on the October 7th. There was a long history of occupation by Israel, and Israel occupying Palestine since 75 years, and Palestinians were displaced since 1948, and they are in the diaspora. 8 million Palestinians are refugees, and in Gaza, two-thirds or maybe 70% of the people who are living in Gaza are refugees from 1948. Certo, lui giustamente tiene a precisare che la storia non è iniziata il 7 ottobre, ma che c'è una lunga storia di 75 anni di occupazione da parte di Israele, da parte dell'esercito israeliano e di civili israeliani. Dopo ci addentreremo meglio, diciamo, in questa tematica, e che quasi il 75% della popolazione che vive a Gaza in realtà veniva dai territori intorno, quindi è stata ricollocata negli anni a seconda dei villaggi distrutti e delle città. So before October 7th there was 250 Palestinians killed in the West Bank before October 7th. Prima and around 5,000 people are in the Israeli prison. Allora, per lui dice, prima del 7 ottobre intanto negli ultimi mesi c'erano stati 250 morti palestinesi e quasi 5,000 nei mesi successivi, nei mesi precedenti 5.000 arresti, quindi 5.000 prigionieri palestinesi, quindi appunto non molto forte nel territorio del militare e sia del civile israeliano. Questo l'ho aggiunto io. Sorry, one question, Farid. We know that we are overloaded of in communication about politics, of course, but we want to focus not only in Gaza. We want to ask you about the West Bank, because we are very curious about, you know, you stay your village Kira is between Nablus and Ramallah, two different places in West Bank. One is these are two different cities. Ramallah is the center of political, and Nablus was the center of political center of activists against the settlement, because Nablus is a particular situation, is surrounded by settlements, right? And how is the feeling there during this period? Because we know that now the settlers are armed by the Israeli force of the occupation, and the situation is worse than ever. Gli ho chiesto appunto com'è la situazione in West Bank, perché nel suo villaggio è tra Nablus e Ramallah, che sono due città che hanno diverse tipi di problematiche. Una ha un centro politico, diciamo, più di spessore, più burocratico, che è Ramallah, circondata comunque da un muro con un checkpoint molto invasivo, ecco, e l'altra è circondata a Nablus da colonie, quindi di insediamenti civili israeliani di persone particolarmente violente. So please go on, how is the feeling? Yes, exactly, as you put it, that Kira is located between Ramallah and Nablus, and this area where my village is located is populated by settlers. Like around my village, there are 7 Israeli illegal settlements are built on the private lands of Palestinians in that area, and the roads, the main roads, are locked. And we are not allowed to use the main roads because the settlers are using it. Ok, quindi nella strada, nel suo villaggio, intorno al suo villaggio, appunto Kira, lui si trova ad avere una situazione con 7 colonie e la strada principale è sempre bloccata perché la usano appunto i coloni. Man, sorry Farid, settlements, outpost, or they are town of settlement, like a town or outpost? Yeah, there are some towns like Ariel. Ariel is the biggest settlement in the West Bank. It's located near my village. Mm-hmm. And there are also some outposts was built here a few years ago. Quindi gli ho chiesto praticamente se erano avamposti di colonie o vere e proprie città, perché le colonie israeliane all'interno della West Bank possono assumere varie forme, sia di città vere e proprie, perché negli anni hanno sviluppato appunto scuole, case, e non ti rendi conto nemmeno appunto quindi sono villette a schiera, e poi veri e propri avamposti, che sono proprio delle roulotte, dei caravan, dei container piene di persone che si armano, delimitano un perimetro e da lì partono per prendere terre e per prendere terre palestinesi. Le situazioni circostanti, lui ha detto che c'è Ariel, che è una colonia molto grande, e poi il resto sono tutti avamposti. Ok, so the violence of the settlers in Nablus and around Nablus, please tell us about this problem, and I mean, who maybe try to to help us to understand how it's possible that a military forces armed these people that are supposed to be illegal, and they ask them to for the security of a place that not supposed to be there. Yes, so the settlers, because there are lots of settlers living around, they are attacking Palestinian villages. The last week, a Palestinian from the nearby village of Assawi, it's next to my village, this farmer was murdered by settlers while he was harvesting his olives. He was with his family, his kids and wife. They were harvesting their private property. When the settlers show up, four settlers came to him and they shot him dead on the spot while he was harvesting. Allora io gli ho chiesto com'era possibile, appunto, che se potesse spiegare un attimino la violenza dei coloni nella Cisgiordania. In questo momento sono stati armati e sono delle persone molto pericolose. Lui ha raccontato proprio in un villaggio, durante la raccolta delle olive, un signore che era lì con la propria famiglia è stato ucciso a morte proprio da dei sledder armati che giravano lì nei dintorni. Can you repeat the name of the village? I didn't get it. The name of the village is Assawi. Assawi is a village on the main road between Nablus and Ramallah. Ok, Assawi. Sempre Assabi. Assawi. Ok, Saab capire. Yes, okay. Esatto. Yes. Yes. In un villaggio. On the other side, the settlers came to the village next to our village called Beristia. And this village, the settlers attacked the people who were while harvesting, and they also distributed leaflets in Arabic, asking Palestinians to leave the villages and to go to Jordan, because they are if we don't do that, the settlers are threatening through these leaflets to attack the villages and kill all the Palestinians if they don't leave to Jordan. Quindi lui sta raccontando praticamente che in un altro villaggio vicino tra Nablus e Ramallah dei coloni armati sempre sono venuti a minacciare, a intimare i palestinesi di lasciare le loro case e di tornare in Giordania pena appunto la loro esecuzione e morte. Ricordiamo che molti palestinesi in questo momento si stanno sotto appunto diciamo la violenza dei coloni, si stanno spostando, abbandonando le proprie case, molti villaggi vengono displaced, come si dice, vengono appunto dislocati. Palestinians are taking these threats as serious, because settlers now, the government of Israel is giving arms for the settlers. They are giving them weapons and guns, and they form militia for settlers to attack Palestinians under the pretext of security. And now settlers, you cannot distinguish between the settler and the soldiers, because all of them are armed and they have weapons, and they attack the villagers and the villages in other area. They attack many villages during the last couple of weeks. They are also preventing farmers who own farms next to the settlements or in the main road, they are preventing them from harvesting their crops. Ok, questa è una cosa molto importante. Farid ha aggiunto che appunto il governo israeliano ha armato i coloni nella West Bank e non riesci più a distinguerli dai soldati, perché sono vestiti da soldati, indossano tute militari, sono armati, e quindi comincia a essere molto difficile distinguerli, e girano indisturbati anche, diciamo, avvicinandosi ai contadini della zona, impedendoli di fare la raccolta delle olive. And Farid, one question please. In all West Bank settlers are armed, and now they dress like soldiers, so it's impossible to understand who is the soldier, who is the settlers. That's correct, right? Yes, we cannot distinguish between the soldier and the settler. Settlers are from the army, they are military, but sometimes in civil form, you know. So you never know who is this. And also the soldiers are guarding them and trying to protect the settlers while they are attacking Palestinians who are armless. We have no weapons, no arms to defend ourselves. Sì, lui, gli ho chiesto appunto se mi confermava questo fatto che fossero vestiti, che i coloni fossero vestiti come i soldati e che in qualche maniera riuscì, fosse un problema anche distinguerli, e non solo non si distinguono, ma i soldati anche quando ci sono li proteggono e sono al loro fianco invece di scacciarli e proteggere la popolazione come dovrebbero fare in una zona almeno di occupazione militare. عشاق الحرية يا يما بيدقوا عبوابنا يا يما هذول النشامة يا يما طلاب الكرامة يا يما هذول النشامة يا يما طلاب الكرامة يا تامة يا يما سلامة شبابنا يا يما في دق عبابنا يا يما هي دق أحبابنا One question for it, please. I mean, we're just help us to understand. I mean, and now, I mean, the political situation is pretty tough. And maybe you feel free to answer or not. And of course, I understand if you're not comfortable. But I would like to ask you, because it's the news of today, that the question is, who is going to run, who's going to lead Gaza, who is going to lead the West Bank in a political, who is going to be the leader, the ANP or Hamas or what else? What's your opinion about that now, the political situation, what the people believe? I mean, the feeling of the people about the politics and the politician, please, if you can, if you want. Yeah, you know, the division between the West Bank and Gaza, there is a split between West Bank and Gaza before October 7th. I mean, in Gaza, Hamas is ruling the Gaza Strip, while the Palestinian Authority, led by Fatah movement, is leading the West Bank. So in the West Bank, the Palestinian Authority has been negotiating the Israelis since 1993, like almost 30 years ago, but we didn't achieve any big achievement. Settlements are growing. Many settlers, like three doubles of settlers now settling in the West Bank under the negotiations and under the rule of the Palestinian Authority, who has a peace agreement with Israel. So, Wait a second, Farid. Gli ho chiesto appunto quale futuro vede nella politica palestinese. Proprio notizia di oggi che appunto la domanda è chi guiderà Gaza, chi guiderà la West Bank dopo questa, chi sarà la nuova forma di leadership politica, se l'ANP con Abbas, se Hamas, se altre forme di politica. Lui ha detto appunto c'è una grande divisione fra la striscia di Gaza e la West Bank. La Gaza è sempre stata appunto guidata da Hamas, mentre ovviamente la West Bank da Fatah, che è il partito, cioè l'autorità in realtà che guida la West Bank e che dal 93 dovrebbe garantire la costruzione di una forma di aggregazione di Stato palestinese, ma in realtà è dal 93 che le colonie aumentano e la politica degli insediamenti aumenta. Please go on, Farid. The fact that the West Bank is under the rule of the Palestinian Authority, which has a peace treaty with Israel, does not prevent Israelis from invading the Palestinian cities in the West Bank. They, every night almost, they raid the Palestinian cities like Ramallah, Jenin, Nablus. Now in Tulkarem, they killed four people in the city of Tulkarem in the West Bank. 2 days ago, yesterday in Hebron and in Jerusalem, the day before in Jenin. Israeli army is raiding and invading the Palestinian cities and villages and killing people. 160 people in the West Bank were killed since October 7th, and almost 400 people has been killed in the West Bank from the beginning of this year. Quindi lui, nonostante la presenza dell'ANP, purtroppo nella di Fatah, quindi nella West Bank, non impedisce appunto all'esercito italiano di entrare e invadere nelle città, diciamo, considerate a controllo dell'autorità nazionale palestinese, come Ramallah, come Jenin, come proprio Tulkarem in questi giorni. Ci tiene a presentare il numero delle vittime nella West Bank, quindi non a Gaza. The victim are 100. 160. The victims are 160 from the beginning, from 7 October 7th, and 400 from the beginning of the year. Ok, quindi yes. 160 vittime da palestinesi, ovviamente, da parte appunto dell'esercito israeliano e dei coloni, dall'inizio del 7 ottobre e da 400 dall'inizio dell'anno. Farid, which is the future of Palestine? In your opinion, please. I think the solution for all this is a political solution. It is not security, not military. There should be like a political situation. We are people under occupation, and we need to be free. Justice should prevail. There is no peace without justice. And I think the unfair occupation is the main source of all these atrocities and all this violence in the West Bank and in Gaza. So you think basically you claim? Can you repeat it a little bit? I mean, the solution, the political solution, the human solution, the political solution. In your opinion, which is it? I mean the solution is to end the occupation. End the occupation. The occupation. Yes, because occupation is the main source of this, all these atrocities. All this injustice is caused by Israeli military occupation of the West Bank and Gaza. And to end this, the occupation should have an end. Allora, gli ho chiesto quale futuro vede e quale politica possibile. La prima politica è sicuramente l'unica, la fine dell'occupazione. La fine dell'occupazione israeliana sia a Gaza, o comunque l'assedio di Gaza, possiamo chiamarlo, e l'assedio in generale in questi anni, circondata Gaza da mura, adesso c'è un vero e proprio massacro e genocidio, e la fine dell'occupazione di territori soprattutto palestinesi nella West Bank, quindi la fine degli insediamenti. For the human rights in Palestine, I mean the recognition of the human rights in Palestine, it's someone who is speaking about that. I mean, because you have the authority, the Fatah, you have Hamas, but you have other leaders. Do you have other leaders in this moment, or that they are speaking about human rights in Palestine? They can rise. Like a new form of politics, a new man or woman. No, unfortunately, there is no new leadership in the West Bank. It is the Fatah in the West Bank and Hamas in Gaza. But there are some leaders like Marwan Barghouti, who was Israeli prison. Yes, who is in Israeli prison since 20 years. And Marwan Barghouti is very popular. He is Fatah, of course. And many people admire him. I don't know if Israel will allow him to be released from the prison to lead the Palestinian people. But in general, Palestinians are stuck between Hamas and Fatah. Hamas in the Gaza Strip and Fatah in the West Bank. And we as Palestinians, we don't even trust most of our leaders, actually. The leadership, we have a lack of leadership in the West Bank, because there is no protection for Palestinians in the West Bank. Allora, io gli ho chiesto fondamentalmente come, quale politico, quale futuro vede a livello politico. Gli ho specificato più la domanda a livello di leadership, quello che lui vede come a livello di leadership per una futura Palestina. Quali sono le figure di riferimento che possono emergere e sorgere per una nuova Palestina? Inizialmente appunto ha detto detto che non ci sono leader, fisicamente non ci sono in questo momento figure che possono veramente dare una svolta, tranne una persona che è Marwan Barghouti, che ormai è lo storico leader della prima e della seconda intifada, prima del leader di Tanzim, che era un gruppo militare di Fatah, poi si è discostato nelle brigate martiri di Al-Aqsa dopo la seconda intifada del 2002, che è attualmente in prigione dal 2002 e che è una persona che però ha un carisma e che ha parlato di pace, che appartiene a Fatah, però in una Fatah di 20 anni fa, insomma, non questa. Okay. There is something else you want to add, Farid? Please go speak free. I just want to say that people like myself who are living in the West Bank, parents like myself, I'm a father of four kids, I feel scared when I think about the future of my kids. The future is not brilliant. It's not like there is no light at the end of the tunnel, as they say. We don't see any light at the end. We need to have hope. We need to from the international community some kind of solidarity and support to end the occupation. And we as Palestinians, we are not looking for war. We like to live in peace and harmony. We like to be people, freedom of movement, freedom of travel, to have jobs and all this, like any other, like people in Italy. We have the same, but we are under occupation. We have no alternative. We cannot. I mean, we don't have the choice to choose our life. We are dominated by the occupation, the Israeli military occupation. Allora, gli ho chiesto a Farid cosa spera per il futuro, cioè nel senso cosa di parlare liberamente, se ci vuole mandare un messaggio. Lui è preoccupato per il suo futuro, per la sua famiglia, per i propri figli, non vede luce in questo futuro e vorrebbe appunto speranza. La speranza è, dice appunto, una solidarietà internazionale sulla fine dell'occupazione. Palestinesi non vogliamo la guerra, vogliamo vivere in pace, siamo un popolo libero che vuole vivere in pace, ci manca la scelta di scegliere la nostra vita, ha detto, quindi non abbiamo scelta di scegliere la nostra vita, come voi in Italia, vogliamo una vita normale di tutti i giorni. Thank you very much, Farid Shukran El Akhiani. Yani, Iyate Kalafie, and hope for you the best, really. I just wanted to add something, if it's possible, Francisco. Yeah. Last sentence. I want to end the conversation with a positive thing. Yeah. Vuole finire la conversazione con una nota positiva, please, Farid. Yeah. In spite of all these atrocities and all this violence in the West Bank and despair, but we Palestinians are not thinking or considering leaving this country. We are staying in the country. We are going to raise our children in this country. And at the same time, we are looking for freedom and justice. But leaving the country is not an option. Va bene, ok, vuole finire con una nota, diciamo, volevo finire una nota di potenza, di forza, dicendo che noi palestinesi non lasciamo la nostra terra e che cresceremo i nostri figli nella terra dove abitiamo e dove siamo nati, non abbiamo nessuna intenzione di lasciarla. Farid is clear, loud and clear, like, you know, like a waterfall. Thank you very much. Thank you, Francisco. Maybe we are free to call you if you are available, just to keep up posted and to you are not alone. Okay, all the people with the population, thank the you. Italian population is with you. Okay, and I cannot speak about our governments, but the population are with you. The people are with you. We are trying to organize demonstration and event just to speak about us as much as possible. We cannot be there, but we continue the struggle besides you, okay? Thank you very much, and Italy is my favorite destination. I love Italy. you are welcome when you come back, you're gonna visit us, please. Grazie. Thanks. Mille. Thank you, Francisco. Grazie a te. Take Farid care, be safe. Okay. Thanks. Bye bye. Thank you very much. Bye. Bye. Ok, abbiamo chiuso la conversazione con una nota abbastanza di forza, insomma, è positiva. Mi sono permesso il lusso di dire che la popolazione, il popolo, questo clamore, un po' il popolo è con i palestinesi, non il governo, non posso parlare, ma il popolo è con i palestinesi. Ok, grazie mille a Farid e alla prossima, si è reso disponibile per altre conversazioni insieme a noi. Buon ascolto, ciao a tutti e a tutti. Allora, eccoci ritornati dopo questa intensa e preziosissima intervista, grazie a Farid per la sua testimonianza e ringraziamo anche Francesco per l'aiuto, per la traduzione. E, appunto, volevo, come diceva Farid nell'intervista, la guerra è iniziata molto prima del 7 ottobre, ma come avevano puntualizzato, i morti 160 diciamo dall'inizio di questa guerra, ma 400 dall'inizio di quest'anno, più o meno anche dall'intensificazione diciamo dell'attività israeliana militare e istituzionale, anche dall'avvento dall'avvenuta non al potere ma al ministro della sicurezza e degli interni di Ben-Gvir, che ha iniziato a intensificare l'attività di colonizzazione da parte dei coloni civili israeliani per delocalizzare i palestinesi civili, ai suoi tentativi di legalizzare qualsiasi tentativo umanitario di aiuto come l'ONG oppure le varie organizzazioni non governative, per poter diciamo un po' che potevano dare una mano anche ai civili palestinesi, quindi una situazione molto complicata. E questo niente. Sì, poi volevo dire che se volete ci sono qualche articolo di Farid, è stato pubblicato sul sito della Terra Trema, che è www.laterratrema.org, dove appunto lui parla un po' della situazione degli agricoltori palestinesi, delle loro terre, del fatto insomma che ci sono i coloni che non riescono a accedere ai loro campi. Insomma, fa in questo paio di articoli una riflessione un po' più generale, e sono articoli ovviamente più vecchi e risalgono a prima dell'inizio di questo diciamo conflitto dichiarato. Sì, e sì. Anche lì si ribadisce appunto più volte il fatto che ai civili palestinesi non viene lasciato l'accesso ai loro terreni, ma anzi dice che addirittura praticamente loro possono accedere alle loro ulivete due volte l'anno, che è una nel periodo in cui dovresti arare e l'altra per la raccolta, e quindi te devi puoi andare a raccogliere il tuo terreno praticamente in un giorno solo. Quindi ci sono un sacco di persone che si ritrovano a lasciare molte olive sugli alberi, insomma, perché non riescono comunque in una giornata sola a concludere tutto, non c'è in alcun modo verso di ovviare a questa situazione. Quando ci provano comunque vengano scacciati, se non addirittura a volte è successo appunto arruotati con i mezzi, insomma, sì. Avvengono più e più. Come l'impediscano anche la cura dei terreni o comunque anche la distruzione degli allevamenti, come può essere stato prima verso settembre, c'è stato un'aggressione a un palestinese che faceva l'apicoltore, a cui è stata distrutto un intero apiario, si parla di una settantina di famiglie. Vabbè, questo e tanto altro, ecco, anche per dare dell'informazione differente alla stampa, diciamo, nazionale, che spesse volte di parte, senza fare... usciamo dalla filitera del Lucca Comics di questa settimana per parlare di cose più serie, magari. Davvero. E salutiamo Matteo Salvini, che dice ancora a Lucca dal scorso fine settimana. Va buono. Vabbè, dai, ma vorremmo arrivare alla conclusione con delle notizie un po' più positive, quindi lascio la parola a Pam, perché sennò questa puntata veramente ci affossa. Una pesata. Con questo clima terribile fuori e dentro. Vabbè, anche comunque importante puntualizzare. No, è stata veramente interessante, grazie ancora a Francesco. Certo, è fondamentale puntualizzare, dopodiché parliamo invece, veniamo a cose più locali. È prevista per il 18 un'iniziativa promossa dal gruppo Jérôme Laronce di Genuino Clandestino, dal nostro gruppo, e riguarda la presentazione di un nuovo progetto che stiamo iniziando, che è un progetto che si trova alla Mangona e che viene svolto in collaborazione con altre associazioni e con altre realtà. Ce ne parla oggi Zoro, grazie per essere qui. Ciao, buon bati. Ok, raccontaci un po' che succede, che succede alla Mangona e che succede sabato prossimo. Certo. Allora, vi racconto un po' questo progetto, che è partito tutto circa 3-4 mesi fa, con il gruppo e la comunità contadina di Jérôme Laronce, dove un piccolo gruppo di persone era alla ricerca di casa e terra, e con il supporto di un'associazione fiorentina che è a Casa Caciolle abbiamo trovato una situazione, una casa molto bella con della terra alla Mangona. La Mangona, che si trova in località Barberino, quindi nel Mugello, Barberino del Mugello. La struttura è comunque la località e il territorio, si presenta una casa più o meno di 600 metri quadri con oltre 140 ettari di terra, con marroneta, tanto bosco di legna, e seminativi e prati a pascolo. Tutto questo, diciamo, questo progetto nasce proprio di riabitare quei territori che vengono così lasciati all'abbandono, e quindi si è avvicinato con un po' di tempo, un po' di persone, a riabitare questo spazio un po' in comunità, in collettività, quindi facendo partire pian piano, con il tempo dovuto, anche progetti comunitari. Per adesso siamo una famiglia, e senza fare questa distinzione, comunque siamo una famiglia con altre sei persone, e nel posto nasceranno progetti agricoli, ma sociale, di divulgazione, anche di divulgazione politica. Si spera di aprirlo insieme a Jérôme a progetti sia contadini, comunitari, quindi di mutuo aiuto, di semine collettive, di raccolte collettive della marroneta, ma anche di progetti politici e di scambio sociale. È tutto da costruire, quindi sarà spero un bellissimo percorso da vivere insieme con la comunità diffusa di Jérôme Laronce, e insieme ci stanno affiancando, stiamo coprogettando con l'associazione Casa Caciolle. L'associazione Casa Caciolle si trova a Rifredi, Firenze Nova. È un'associazione che lavora con ex detenuti e detenuti e detenute, e è un'associazione che, diciamo, è sotto la diocesi, ma che ha anche un percorso molto plurale, ha un percorso di vita anche comunitaria con i detenuti e le detenute. Con loro stiamo cercando comunque di abbiamo a livello contrattuale la Mangona insieme, e insieme cercheremo anche di condividere progetti e il percorso, diciamo, lavorativo. Infine siamo arrivati, visto che ci saranno anche tantissime spese, ma anche come prima tappa, come primo momento, diciamo, di vita conviviale e di iniziativa sociale per presentare il progetto, siamo arrivati a una data che è quella del prossimo sabato, il 18. Esatto, il 18, dove ci troveremo a Casa Caciolle a presentare il progetto. Sarà in tutta la giornata, dalle 16 ci sarà il mercato contadino di Jérôme Laronce nel cortile esterno, sperando nel buon tempo, e alle 18 la presentazione delle due realtà di Jérôme e di Casa Caciolle. Un po' anche parleremo, magari si spera, anche in un'assemblea un po' più aperta, dei progetti e delle idee che si possono inserire all'interno dello spazio. E infine una buonissima cena con i prodotti genuini e clandestini del mercato. Vai col menù. Allora, vado con il menù. Allora, chiaramente solo verdure di stagione delle nostre produttrici e produttori, e partiremo con un buonissimo antipasto toscano con cavolo nero, pezzi di formaggio buonissimi dei nostri produttori e un buonissimo sformato di patate e verdure di stagione. Poi abbiamo una zuppa calda e riscaldante per i carnivori, con gallina e legumi e cereali e verdure, e una vellutata di zucche con verdure. Questo niente pappa al pomodoro, ma accompagnate da buonissimo vino. Benissimo. Benissimo. Grazie. Bene, direi che non ci resta altro che venire alla cena, anzi sì, al pre-cena, anzi alla presentazione del progetto. Esatto. Quindi dalle 16 tutti partecipate a Casa Caciolle, in via di Caciolle numero 7. Esatto. Giusto? Sì, perfetto. Diciamolo precisamente. Sì. E mi sembra che tu abbia raccontato tutto. Ovviamente seguiremo passo passo questo progetto che ci sta ovviamente molto a cuore, e quindi mano a mano che si sviluppa e mano a mano che avrete novità siete invitati, certo, a venire a raccontarcele, certo, sempre. Si spera anche di magari di costruire anche dei percorsi pubblici, magari insieme a Jérôme, e allargando anche il discorso più avanti. Adesso siamo soltanto all'inizio, quindi spazio anche un po' all'immaginazione. Scusa, alla, una domanda che ti volevo fare creatività. Era, visto che, certo, vi siete un po' insediati, se avevate già avuto qualche forma di accoglienza o di contatto col vicinato o con la comunità più prossima alla vicina? Sì, in realtà sì. Adesso siamo chiaramente nel momento della legna, anzi siamo molto in ritardo per accatastare e fare legna nel bosco. Siamo già a un buon punto, si spera anche di chiamare delle giornate di lavori collettivi, e abbiamo conosciuto un tagliaboschi della zona molto simpatico, che vive lì, che ci darà anche una mano a raccogliere la legna tagliata nel bosco. E niente, per adesso abbiamo un vicino che si è affacciato, molto, molto simpatico, anche lui ci ha chiesto se volevamo una mano. Bene. A fare dei lavori. Bene. Quindi in realtà desta un po' di curiosità la situazione, era in abbandono da molto tempo, quindi rivedere un posto riabitato fa sì che deve essere un flash, esatto, per chi è là da sempre, sì. Magari ha visto, assistito, sì, allo, sì, spopolamento. Sì. Bene, okay, questo è quanto. Ma se io non guardo la punta.org, voglio sapere dov'è Casa Cacciolle. Dove si trova Casa Cacciolle? L'abbiamo già. Ah, mi sono distratto. No. Però puoi ripuntualizzare la punta.org. Dove il nostro gruppo, dove il nostro ufficio tecnico cambierà appena possibile il volantino. Come? Ancora non è stato fatto. L'importante, insomma, è che abbiamo tutte le informazioni anche attraverso la radio, quindi ci si può anche riascoltare il podcast, no? Se proprio uno vuole essere completo e oltre che sapere di questa iniziativa. Quale podcast? Questo. su quale sito? Ok. È una domanda. Va bene, grazie. Allora grazie a te. Grazie Zoro. Ciao, buon bati. Metto un pezzo. E vai con la cumbia. Allora, lo Indice me fit d'em. Gros, je suis loin de grandir que des bandits dans le sound system. Si toi tu nous as menti, ça sera pas joli pour ceux qui t'aiment. Retour gros chez nous, y'a pas de week-end. C'est mafia napolitaine. Quand je pourrais racheter nos terres au bled, là je pourrais crever Sten. Il faut kilos de péruviennes, les rappeurs chez tous des collégiennes. Ce mois-ci, je suis en bénéfice. Il faut une perche viscère de trois mesures de cesse. Si, j'ai un bout de fer fort comme l'hiver, je siffle au gouvernement. Là, je suis perverti par le yalo. On n'a jamais eu le temps d'être d'eau. L'amour est surprise, ça trempe par haut. On dit que je suis pas bon pour les cadeaux. On m'a dit mon gof, faut les sourdos. Je me rappelle pas de son nom, mais de son dos. Y'a pas de tuto pour les coraux. Des gars font gaulerie comme boulot. On sort le gala, on fait notre boulot. Big up aux refs qui ont caché mes meubles quand Babylone a cassé ma porte. Ils ont le son de mes ancêtres sur leurs mains. C'est pas ta rifle que je saute. Higo, on est pas potes, j'ai star dans la porte, j'connais pas le code. Higo, on est pas potes, j'ai star dans la porte, j'connais pas le code. Zipette, zipette, j'ai fait une fixette sur ma poule. A6, A7, j'fais le tour de France sur Reboot. Zipette, zipette, j'ai fait une fixette sur ma poule. A6, A7, j'fais le tour de France sur Reboot. Zipette, zipette, j'ai fait une fixette sur ma poule. A6, A7, j'fais le tour de France sur Reboot. Zipette, j'ai fait une fixette sur ma poule. A6, A7, j'fais le tour de France sur Reboot. Tant que j'ai pas le mili, c'est que ma vie n'est pas belle. J'suis dans la cabine, je danse comme un gorille. J'ai le coup de la du barbier pour te chasser en public. Rick c'est narcotique, me toucher Rick c'est narcotique. À quoi dans une épave cagoulée quand t'as rien à pique. Rave cagoulée quand même quand le soleil tape. J'ai vu mes grands changer après le mitard. 20 ans de peine serré dans l'habitacle. 50 smic coffré dans un clic-clac. Tellement ils courent, ils se font des claquages. Dès qu'on dit shoot, faut pas que tu craques. Nouvelle technologie, j'peux te localiser la position exacte. T'as un bon style, tu passes partout, j'te vois dans les soirées, tu vends 200 extra. T'as senti la pression de la fuite, j'suis tellement déçu, jamais eu ça. Faut que t'apprennes à vivre comme ça, j'ai dû convoquer le staff, t'as cru qu'on allait stab. Carton dans les chaussettes, j'voulais m'inscrire au foot, j'veux lâcher des tacles. Cacheton dans la main droite, la main sur le capot, ils ont rien vu, c'est grave. Y'a tous mes pavards qui viennent chicoter, on m'a averti, peut-être trop pire. Les hommes ont remixé les livres, que Dieu t'évite de nous croiser ivres. Et tu vas te calmer ou on va te baffer, toi et ton équipe de troisième div. Baveux est né à Tel Aviv, mon baveux est né à Tel Aviv. Zipette, zipette, j'ai fait une fixette sur ma poule. A6, A7, j'fais le tour de France sur Reboot. Zipette, zipette, j'ai fait une fixette sur ma poule. A6, A7, j'fais le tour de France sur Reboot. Zipette, zipette, j'ai fait une fixette sur ma poule. A6, A7, j'fais le tour de France sur Reboot. Zipette, zipette, j'ai fait une fixette sur ma poule. A6, A7, j'fais le tour de France sur Reboot. E rieccoci in diretta. Ah, ora ti si sente Grebana? Si sente, eh? Mi stanno boicottando comunque. Il mio microfono non fa dei sospetti e Bertolo su Palmiro. Ma bisogna pagare il reverendo per farlo tornare, così ci mette a posto la regia. La sigla speaker che non gli piace, da inizio puntata e mi abbassa il microfono. È tutto vero. è tutto vero, ma bando alle ciance, è giunto il momento, è giunto il momento di Cinemela. Wow, wow, wow, wow. Rubrica preferita. Che ci ascoltiamo qui in radio con Pamela presente. Possiamo fargli subito delle domande. Uno sdoppiamento. Esatto. Eh? E quindi vi mandiamo questa bellissima rubrica. Rubrica Cinemela. Benvenuti alla terza puntata di Cinemela. Inauguriamo oggi la prima puntata di una nuova sottorubrica che si chiama I film che non mi sono piaciuti, ma che per vari motivi magari ha senso comunque segnalare. Il primo tra tutti è che non tutti hanno i miei gusti. E quindi, siccome i nostri genuini sono assai stramboidi, spesso amano cose per me inspiegabili, ho detto perché non segnalare anche dei film che comunque ho visto e magari possono interessare ad altri. Riguardano entrambi i film che vi segnalerò oggi, riguardano entrambi il cinema indipendente inglese. Il primo di cui vi parlo si chiama Red Rocket ed ha appunto la colonna sonora che state sentendo in sottofondo. Che già per me già questa è già insopportabile, così come un po' tutto il film che è stato per me molto irritante, ma non è detto che non lo sia per voi. Comunque questa canzone è di NSYNC, Bye Bye Bye si intitola, ed è una canzone del 2000. In realtà questo film, che si chiama Red Rocket ed è di Sean Becker, un giovane regista indipendente americano, già regista di due altri film che vi segnalo, Starlet e Un sogno chiamato Florida, che forse alcuni di voi già conoscono, si occupa del mondo, diciamo, della pornografia. Sono comunque due di questi tre film sono ambientati in questo mondo e i personaggi, ecco, fanno parte di questo mondo. Sean Becker è un regista indipendente, tra l'altro, che usa un formato di pellicola particolarmente interessante, che ambienta questo film a Texas City, che è un non luogo, direi, americano dell'America, una città sorta attorno alle raffinerie di petrolio, tra l'altro teatro di un anche gravissimo incidente negli anni 40 del Novecento, e quindi è un posto alienante, ecco, un posto dove è impensabile, non lo so, pensare a una comunità, perché è anche, oltre ad essere adiacente a queste industrie, è anche addossato dal deserto. Questa ambientazione, pur molto bella, è teatro di una commedia che racconta la storia di questo, la tragica storia del sogno americano, veramente, che dici vabbè, insomma, solo gli americani possono avere un sogno americano, insomma, comunque, diciamo, fallimentare in partenza, ma che comunque ha il pregio del realismo o della crudezza e della critica, che comunque, insomma, quando esci da questo film dici mamma mia, veramente l'America descritta, pur essendo il film del 2022, l'America descritta è quella del 2016, quindi appena Trump stava salendo, diciamo, a diventare presidente della Repubblica, e quindi c'erano le elezioni in corso, e appunto poi c'è questa storia proprio molto molto triste, però appunto narrata in forma di commedia, che ve la lascio tutta, la lascio alla vostra critica. Red Rocket di Sean Becker. Ah, tra l'altro è stato pure presentato alla 74esima edizione di Cannes. Quindi io, insomma, detto questo, vi rimetterei un pezzettino di questa canzone perché veramente merita, eh? Eh? Merita? Vai. Ah no, guarda che è cambiato. Continuiamo con questa brutta musica per brutti film. Vi segnalo anche questo Everything Everywhere All at Once, che ha vinto l'Oscar nel 2023. Anche questo è un film del cinema indipendente americano che tanto ci piace, insomma, comunque, che viene definito come genere commedia, avventura, azione, dramma, fantastico e fantascienza. Ecco, dentro a questo film, in cui direi che è cruciale la relazione madre-figlia, c'è un po' di tutto, insomma, diciamo, c'è un po' di tutto, ecco, e oltre ad una trama che, uno dice, vabbè, da mettersi le mani nei capelli. Comunque ha vinto un Oscar, è piaciuto a molti e quindi, insomma, chi avesse maggiori curiosità rispetto a questi due obrobri, io, insomma, vi posso anche dare delle indicazioni, o non so, voi potete anche darmi delle pennette, insomma, possiamo fare delle cose che riguardano la vostra visione di questo film, Everything, Everywhere, All at Once, di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, spero di averlo letto giusto. Comunque, insomma, è italo-americano e cinese, ci sono anche molte etnie. Vabbè, veniamo alla nostra rubrica Il cinema gratuito, e quindi le segnalazioni che di solito riguardano la piattaforma di Rai Play, non tanto perché noi amiamo la Rai quanto perché noi amiamo la sua gratuità. E quindi, dopo avervi già segnalato che sono presenti in questa piattaforma alcuni film di Ken Loach post 2000 e One More Jump, grazie Clio, che vedremo quanto prima, che è questo film fatto, scritto e diretto da due ragazzi palestinesi su una loro storia ambientata nella striscia di Gaza. E vi segnalo questa settimana Passeggeri della notte, un film di Michael Hirst con Charlotte Gainsbourg, molto bello, molto delicato, una storia molto, molto normale che avviene in Francia, a Parigi, negli anni 80, che vengono anche questi ricostruiti molto bene, gli anni in cui era presidente Mitterrand, quindi c'era un certo clima sociale, lei sempre molto molto molto brava, e quindi, insomma, molto un film molto gradevole. Ciò detto, veniamo a Cinemela di questa settimana. Che bello, che bello, che bello. Allora, vi segnalo quelli invece che sono piaciuti tanto tanto tanto a me. Allora, il primo si chiama Holy Spider, è un thriller di un regista che si chiama Ali Abbasi, è ambientato a Mashhad, dove arriva una giornalista di Teheran che si chiama Rahimi ed è ottimamente interpretata da una attrice che si chiama Zar Amir Ebrahimi, ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes del 2023. E meritatamente, nel senso che è più che un thriller, in realtà è un giallo noir, è un'indagine che conduce lei e conduce la polizia su un serial killer, tra l'altro è ispirato comunque ad una storia realmente accaduta a Teheran, dove insomma, c'è stato questo serial killer che uccideva le prostitute per fare la pulizia, diciamo così, del giustiziere morale, la pulizia delle strade, e quindi questo qua è più o meno lo scenario in cui questa giovane giornalista cerca di scoprire la verità, ovviamente all'interno di una cultura e di un ambiente assolutamente ostili sia alla sua professione che soprattutto al suo essere donna. E questo è il primo che vi segnalo. Poi collegato a questo, se siete appassionati di thriller, ho anche una micro segnalazione di un thriller, comunque thriller, un very very thriller danese, ambientato però in Olanda, di Christian Tafdrup, che si chiama Speak No Evil, del 2022. Ecco, se siete amanti possiamo anche citare questo, che ovviamente non è paragonabile con Holy Spider, anche perché mentre Holy Spider è il racconto di un'indagine, Speak No Evil è un vero thriller, quindi insomma diciamo che si spera che abbia del gran surrealismo ecco in sé, non è che sia tanto splatter, non è che ci sono scene, però insomma c'è tutta quell'inquietudine che monta tipica del thriller. L'ultimo film che vi segnalo in questo cinemela è Animali Selvatici, RMN, acronimo di risonanza magnetica, nonché uniche consonanti di Romania. Romania infatti è il paese in cui si svolge questa situazione, che a me è piaciuto moltissimo perché è il realismo, razzismo reale, il razzismo reale nei piccoli paesi, che è poi espulsivo con una cattiveria da Ku Klux Klan che diventa veramente poi questo, in realtà ciò che accomuna i popoli davvero è le forme del razzismo, che sono uguali dappertutto. Comunque, che succede? Succede molto banalmente che in questo villaggetto della Transilvania, è anche bello, bello dove è ambientato, questo villaggetto della Transilvania, appunto, un panificio decide di aprire le candidature le candidature per diventare panettieri a persone straniere, perché non trova persone in paese che vogliono svolgere questo lavoro, e quindi arrivano dei ragazzi cingalesi e scoppia il putiferio, un putiferio noto, stranotto, che però è ovviamente molto più impattante, ecco, interpretato da personaggi in carne ed ossa, con argomentazioni collegate alla loro vita, e in realtà ovviamente insomma come questo villaggio, come tutto il mondo, anche questo villaggio ha è la presenza di molte etnie, c'è un po' di tutto e però l'equilibrio tra queste etnie raggiunto faticosamente e con grosso spargimento di sangue è un equilibrio molto ma molto ma molto delicato, come dappertutto. Questo insomma è il motivo per cui questo mi è piaciuto particolarmente, perché comunque la vostra Pamela purtroppo ha dei gusti un po' pesantini, voi lo sapete, sapete come evitarlo, potete farmi sempre le vostre segnalazioni, che sono e rimarranno sempre graditissime, ma non c'è verso, io vi consiglierò sempre dei film pesanti, ragazzi, è così, ragazzi e ragazze soprattutto. E dulcis in fondo, segnalo che è uscito il docufilm su Giorgio Gaber, e quindi spero di vederlo presto e di potervi raccontare presto e com'è e l'impressione che mi ha fatto. Uno di noi, Gaber, uno di noi, piezze core, e quindi su Giorgio Gaber vi saluto e vi auguro una buona settimana, anzi buoni 15 giorni, a prestissimo, ciao ciao! Una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh. quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo. Uno shampoo? Sì. L'acqua scroscia, l'acqua calda, fredda, calda, giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? Questa. Schiuma, soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo, seconda passata. Son convinto che sia meglio quello giallo senza canfora. Son più cari perché sono anti forfora. Schiuma, soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa sacra, è una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana. Acqua, acqua, acqua. Facciamoci uno shampoo. Prova ad aggeggiare col microfono, usa l'altro microfono. Provo con l'altro, okay, microfono. Ok, oh, mi si sente anche, forse. Anche un po' troppo. Anche ci troppo. Siamo. Mi abbassano di un tiro, insomma, no, non c'è verso di parlare. Basta che ti allontani dal microfono. Clippo. Va bene, è stato stranissimo poter parlare con Pamela mentre sentivamo Cinemela, è stato un flash, ecco, comunque voce di Pamela ovunque, è stato bellissimo. No, io volevo dire, sto apprezzando sempre di più questa rubrica che sta creando e tutte le sue espansioni, tutte le sue sottorubriche, ma soprattutto mi è venuta in mente una cosa, sentendo la cosa dei film brutti, mi è venuto in mente questo film che si chiama The Disaster Artist, che è un film che venne fatto un po' di anni fa, su che praticamente parla della storia del film più brutto di sempre, che era questo film uscito nel 2003 che si chiamava The Room, si chiama The Room, che è uscito praticamente totalmente autoprodotto da questo personaggio strambo, enigmatico e abbastanza assurdo che si chiama Tommy Wiseau. È veramente, a quanto pare, un film orribile. Io devo dire, ho visto solo The Disaster Artist, dove però fa un po' di scene in cui riprende le scene originali del film, e devo dire è una cosa abbastanza agghiacciante. Poi mi sono fermata a questo e non ho voluto oltrepassare la soglia e guardare quello originale, ma è veramente terribile. Quindi ve lo consiglio come film bruttissimo, fateci sapere poi. Da guardare solo fino a un certo punto? No, guardare okay. Proprio tutto, per rimanere proprio perplessi e dire ma com'è possibile una roba così? Però no, è veramente... Sì, in realtà questa questione delle sottorubriche sta diventando una spirale dentro alla quale ne nascono tipo scatole scatole cinesi. Sì, dopodiché dire che un film è brutto, ovviamente, no, al prezzo della soggettività. Ah, certo. Questo però tu confermi. Io questo confermo. Questo è proprio brutto. È proprio brutto. E io ho visto solo appunto questo remake di questo, quindi non voglio immaginarmi l'originale. Ora sono quasi curiosa, quasi in questi giorni me lo vado a vedere, ma proprio credo sia una cosa veramente, non lo so, allucinante. Alla fine ci intrigherà più la esatto, dei film brutti. Saremo curiosi di questi film brutti. E poi volevo aggiornarvi con una news. Penso che la mia intervista al Frantoio abbia portato sfiga, perché mi dicono i frantoiani di Little Valley: il Frantoio oggi si è rotto e sono chiusi, quindi mi stanno maledicendo in tutte le lingue. Quindi li salutiamo, gli diamo un abbraccio di incoraggiamento. E poi, in conclusione di questa densissima puntata, volevo anche fare un saluto alla nuova nascita della settimana, perché vogliamo concludere in bellezza. E quindi saluterei calorosamente Nila, che Dai, è nata Nila! Questo lunedì 6. Evviva! Quindi, benvenuta. Una nuova bambina nella comune. Cri, cri, cri. Non era una battuta. Va bene. Allora, ragazze e Andiamo ragazzi, con pezzaccio, un pezzaccio. Sono le 5.39, saluterei tutti, tutte e tutto, e mandiamo questo pezzo pesone, davvero, mandiamo questo pezzo. Un pesone lo dediamo sempre a Christian, a cui piacerà tantissimo. Sì. Siamo romantici, soprattutto Palmiro. Oggi particolarmente. Ciao a tutte. Ciao belle. Baci.